Il punto di Stefano Folli. A parte la disputa vagamente oziosa sul tema se Bersani ha veramente rinunciato oppure no, era un mandato esplorativo per cui non c'è bisogno di una rinuncia formale, la questione riguarda ora il Presidente della Repubblica. I suoi colloqui di oggi serviranno a dimostrare due cose. Primo, se esiste oppure no il margine per un governo politico. Secondo, in caso negativo, se le forze parlamentari sono disposte ad accordarsi per un esecutivo di alto profilo istituzionale affidato a una figura terza, neutra rispetto ai partiti, sotto la garanzia diretta del Capo dello Stato. Sarebbe il governo del Presidente, basato sull'iniziativa personale di Napolitano e votato ad attuare pochi punti programmatici in un limitato arco temporale. Niente a che vedere con il governissimo inviso al PD, per cui un simile esecutivo potrebbe e dovrebbe essere sostenuto anche dal partito di Bersani, prima che sia troppo tardi e che la speculazione internazionale divori il nostro paese. C'è l'economia reale che attende risposte e a quanto pare ha più fiducia in un anziano presidente giunto al termine del suo mandato che nei soliti partiti.